2. Ascolta e ripeti. Luisa è una studentessa di lingue. Studia l'inglese, il francese e il tedesco. Qualche volta, durante il fine settimana, lavora in un albergo. Molti studenti lavorano mentre frequentano l'università. Per Luisa è una buona occasione per parlare l'inglese, il francese e il tedesco. Al lavoro usa soprattutto l'inglese. Solo poche volte parla il francese e il tedesco. Le lezioni all'università sono molto interessanti, ma sono sulla letteratura straniera. Ci sono solo poche ore di lingue straniere. Luisa frequenta le lezioni dal lunedì al venerdì di mattina e spesso di pomeriggio resta in biblioteca per studiare. Prima di tornare a casa, incontra gli amici davanti alla pizzeria, vicino alla fermata dell'autobus. Parlano spesso di esami e di professori. Gli esami sono scritti e orali. Luisa preferisce gli esami scritti perché, secondo lei, ha più tempo per pensare. In albergo. Oggi è sabato e Luisa lavora in albergo. Buongiorno, signora. Buongiorno. Abbiamo una prenotazione. Il cognome è Willis. Sì, una doppia per 3 notti. Esattamente. Ha un documento, per favore? Un momento. Sì, ce l'ho. Grazie. Ecco la chiave. Se avete bisogno di aiuto, sono a disposizione. Grazie. Sì, ho una domanda. Come si dice city map in italiano? Una mappa della città, come questa? Sì, quanto costa? Nulla, signora. Prego, è per lei. Che cosa vuol dire nulla? Nulla significa niente, cioè queste mappe sono gratis.